Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Brescia, 28 maggio 1974. Una bomba uccide 8 persone in Piazza della Loggia. Arrivamo a Brescia che quasi faceva buio. La luce corta di metà novembre ancora appoggiata ai tetti. Le strade già in ombra. Prendemmo una stanza non più di 300 metri. Poi passeggiamo per il centro e cenammo in una trattoria dove un vecchio si era addormentato con la testa dentro il piatto. C'era chi visitava musei, chi chiese, chi spiagge e chi panorami. Io e Simona visitavamo i luoghi dell'orrore italiano. Piazza Fontana, la stazione di Bologna, via dei Georgofili, l'isola di Ustica e ora Piazza della Loggia. Lo facevamo per capire quei momenti, per risentire il dolore, per riascoltare le menzogne, per essere dentro la nostra storia. Ci andammo la mattina dopo, erano da poco passate le 6. La piazza deserta, sotto i portici aprivano i caffè. Una donna usciva da un portone preceduta da 2 cani. Un furgone scaricava i giornali davanti all'edicola. Un ubriaco tornava a casa reggendosi le colonne dei portici. Forse quella mattina, quella del 28 maggio 1974, la scena era la stessa. Una lapide ricorda i nomi degli 8 morti. 8 morti senza giustizia in un paese dove la legge è diseguale per tutti. Operai, insegnanti, pensionati. L'Italia dei lavoratori ignoti uccise e seppellite dal silenzio, dai depistaggi, dai servizi segreti deviati. A Geli la P2, a Cossiga Gladio, ad Andreotti l'anello. A noi 36 anni di processi e nessun colpevole. Ce l'avevano fatto sapere il giorno prima. I 5 imputati erano stati assolti. Simona prende un velo nero e copre la lapide in segno di lutto. Uccisi per la seconda volta. Alle spalle della lapide nei negozi vendono cappotti e sciarpe. Deposito per terra lo zaino che ho sulle spalle. Ne tiro fuori un secchio di vernice color sangue e un pennello. Vado al centro della piazza e mi inginocchio. La luce del sole è ancora lontana. Fa freddo e alzo il bavero del giubbotto. Poi inizio a scrivere. In 2 minuti ho finito. Mi allontano e affianco Simona ferma qualche metro dietro di me. Cancelleranno la scritta entro sera, ma tutti sapranno che da oggi questa è Piazza della Loggia P2. Paolo Grugni, in libreria con l'odore acido di quei giorni. Laurana Editore, 284 pagine, 16,50 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!